a promuovere, a far conoscere, divulgare tutte le tematiche sempre attuali legate alle culture diverse, all'integrazione, a un processo appunto di inclusione che è lungo, possibile però, ecco, possibile attraverso tante strade, e una di queste è sicuramente la reciproca conoscenza, la conoscenza dei temi, la cultura e un'apertura mentale che la cultura e la lettura anche in particolare possono contribuire ad accrescere. Ringrazio appunto Adele, vi ringrazio di essere qui con noi e volevo cogliere come sempre l'occasione anche per ricordarvi alcuni appuntamenti della biblioteca che ha la sede qui a Centro Trevi nel piano terra e da qualche mese. Ogni martedì pomeriggio noi organizziamo un incontro dalle 15.30 alle 16.30 gratuito di BiblioWeb, insegniamo come leggere e scaricare anche dal proprio device, dal proprio iPhone, eccetera, oltre 50, anzi perdono, anche di più, quotidiani nazionali in tantissime lingue. Poi abbiamo appunto gli ebook, eccetera, quindi ci siamo mossi molto sul digitale. Chi volesse imparare ad usare questa piattaforma gratuita può venire in biblioteca il martedì dalle 15.30 alle 16.30 iscrivendosi prima, è gratis, ma abbiamo bisogno di un'iscrizione. La nostra attività prosegue poi giovedì prossimo alle ore 18 in questa sala con un romanzo scritto da una ragazza di Bolzano molto simpatico che si intitola La prossima volta rinasco papera. L'autrice Francesca Bertoni racconta in chiave quasi autobiografica le sue avventure e disavventure alla ricerca di un lavoro fisso, quindi anche questo è un tema molto attuale. Il prossimo lunedì, quindi il 14 maggio, sempre alle 18 e sempre in questa sala, saranno con noi Gabriele Di Luca e Maurizio Ferrandi e presenteranno il libro scritto da Maurizio Ferrandi, Pensare l'Alto Adige. E infine l'ultima segnalazione è quella di Autismi, un romanzo scritto da Giacomo Sartori che verrà presentato martedì 15 maggio alle ore 17 nella nostra biblioteca. Ecco, quindi abbiamo parecchi appuntamenti, non vogliamo perdere nessuna occasione, siamo convinti che proporre più cose durante la settimana favorisce gli incontri tra le persone, uno scambio di idee, soprattutto arricchisce ulteriormente un sentimento di curiosità, se non altro nei confronti di quello che una biblioteca può offrire. Io vi lascio la parola al nostro ospite, appunto di questa sera, Reggio Barra, per la parola, e qui c'è un banchetto con i nostri suggerimenti bibliografici. Grazie. Grazie Valeria, Gio, mi hanno donato. Da giovedì questo la biblioteca aprirà tutto il giorno, quindi saremo aperti anche pausa pranzo. Stiamo facendo un esperimento. Se avete piacere e bisogno di venire a prendere dei libri o restituirli, potete farlo anche di giovedì, tranquillamente anche dalle 12.30 alle 14.30 perché rimarremo aperti. Iniziamo così una nostra nuova avventura. Grazie. Grazie, direttrice. Questo Valeria Trevisan, per tutto l'impegno insomma, di promuovere la cultura, soprattutto a trasformare i luoghi della biblioteca in luoghi anche di socializzazione, che non è poco in questi tempi qua. E io naturalmente vi ringrazio che siete venuti qua a ascoltare questo, ad ascoltare me, che cerco di condividere con voi delle osservazioni, delle suggestioni su temi molto problematici, naturalmente molto delicati, però richiedono effettivamente ogni tanto qualche sosta. Si dispera? Meglio col microfono? Sì. Sono 18 anni che ripetiamo l'esperienza del microfono. È meglio perché si perde un po' la voce. Dunque, così, fino a qua siete arrivati ad ascoltare la mia interessantissima introduzione. Dunque, dicevo che Il tema, anche in questo incontro, è un tema che credo ci pone delle domande, spesso sono domande spigolose, no, ragionare sulla religione, però io purtroppo in questo incontro qua non farò una riflessione sulla religione. La mia riflessione graviterà intorno alle persone, perché poi la religione, come la cultura, sono vissute da persone e sono trasportate da persone, quindi parlerò più che della religione, parlerò delle persone. Quindi questa è una prima premessa. La seconda premessa è finalizzata a illustrare un po' le ultime due parole del titolo, società plurale. Ho utilizzato società plurale per evitare l'utilizzo del termine multiculturale, perché questa parola può piacere, può non piacere, di cui si abusa molto, non ci si riflette molto, per alcuni è bellissima, per alcuni altri è una cosa come fosse una patologia da cui meglio evitare di avvicinarsi. Banalmente, società plurale descrive un dato di fatto, che ogni società, in tutte le epoche, in tutti i tempi, è per definizione multiculturale. Vi spaventate? Oggi non ci siamo accorti. La società, per definizione, sono multiculturali. Perché? Uno, perché sempre, anche quando ci sono delle maggioranze schiaccianti, dal punto di vista linguistico, religioso o altro, sempre ci sono state e ci sono gruppi linguistici e religiosi che hanno compresenza di gruppi religiosi e linguistici nello stesso territorio. Qui, nella nostra realtà, da un po' di tempo la presenza ortodossa, luterana, ebraica, quindi in qualche modo, anche se sono minoritari, però hanno fatto e fanno parte del panorama, e anche sul piano linguistico. Quindi, per multiculturale, almeno io mi spongo, e sottolineando questa fatta qua, che quando parliamo di multicultura non è qualcosa di nuovo, ma qualcosa che è insito nel nostro territorio e anche nella nostra memoria. Secondo dato, in ogni società coesistono diversi sistemi di valori rispetto alla famiglia, rispetto alla religione, rispetto all'ambiente, rispetto alla pace, alla guerra, tante altre cose, no? E la società si differenzia, ognuno, no? O anche ci sono delle aggregazioni che hanno riferimenti valoriali, si differenziano. Quindi all'interno di una società cosa vuol dire? Che c'è un conflitto ineluttabile, però non per questo si deve scannarsi, insomma, fondamentalmente. Assistiamo questo ogni giorno su temi diversi, per esempio il tema dell'aborto rimane un tema aperto, giusto? Non è che sia arrivato a una conclusione. Quindi questo per dire che è un tema sensibile, per cui all'interno della società ci sono sistemi valoriali che differenzia dalle persone, e le persone sono libere di aderire a qualcosa o l'altro. Terzo fatto, per il fatto di cos'è la multiculturalità, è il fatto delle sedimentazioni storiche in ogni territorio. Ogni territorio, se andiamo a vedere, ci sono dei sedimenti, saperi, lingue, religione, lo stesso quando diciamo la religione, in Europa quella prevalente, quella cristiana, giusto? Però la religione cristiana ha un'origine che va al di là dell'area geografica chiamata Europa, giusto? E la Bibbia ce la racconta benissimo questa fatta qua. Le storie della Bibbia si svolgono in un ambiente territoriale antropologico molto diverso da quello europeo. Questo è un esempio. E quindi le sedimentazioni storiche, ogni territorio ha delle sedimentazioni storiche differenziate, questo sul piano delle credenze, sul piano della lingua, dell'abbigliamento, del cibo. Quindi multiculturalità vuol dire questo: coesistenza di sistemi valoriali, compresenza di gruppi linguistici e religiosi diversi, ma anche le sedimentazioni storiche all'interno di ogni società, all'interno di ogni base culturale. Oggi non esiste nessuna cultura omogenea. Non esiste. E le culture che sono riuscite a sopravvivere sono quelle culture che sono riuscite a incorporare contributi altrui e trasformarli in qualcosa di diverso. Questo lo vediamo benissimo nella musica, nella pittura e anche nel cibo, nell'arte del cibo. In quale casa manca delle dispense di noce moscato o come so, spezie varie provenienti di altri luoghi, no? Chi non ha mai mangiato una banana nella sua vita, nonostante che non si coltiva nella valle dell'Alto Adige, giusto? Qui sto facendo esempi, o la pubblicità del caffè in tutte le città di Bruzzano, cioè tutte le città, le strade delle città in Italia, il caffè che abbiamo prodotto in italiano. Ci vestiamo di cotone, hanno prodotto un sacco qua. Per cui le culture che sopravvivono riescono a incorporare qualche cosa di diverso rispetto a quello che è abituale, quello che è abituale o sempre abituale del proprio contesto. Questo è, finisco, siete, mi seguite? Grazie, sono mi seguite e vado via. Perché che pastore sono? Dunque, allora oggi all'interno di questo panorama ci stiamo assistendo a questo processo che viene chiamato deterritorializzazione. Che cosa vuol dire? Semplicemente vuol dire lo spostamento delle persone da un luogo all'altro. Una cosa antica come il mondo. Spesso mi capita nelle lezioni che tengo, nelle conferenze, mi dicono: ma perché arrivano gli immigrati? Io dico: scusate, un po' di Bibbia, che è religioso o meno, sappiamo qualche cosettina. E Adamo e Eva sono stati le prime persone illegali, extracomunitari, espulsi, sono arrivati sulla terra. Quindi l'origine della nostra umanità sono due clandestini, fondamentalmente. E la storia della Bibbia è tutta una storia di viaggio, di persone che si spostano. Trovate un profeta che era sedentario. E questa è la storia, la metafora della nostra umanità, e la nostra umanità sempre si è incamminata verso l'opportunità. Questa è un'altra data. E allora la deterritorializzazione è anche un desiderio innato nelle persone, e però c'è un processo di deterritorializzazione prodotto da condizioni che viene chiamate anche spostamenti forzati, cambiamenti climatici, condizioni di povertà e oggi naturalmente da tante guerre che sono nel mondo. Non si pensa di fare la guerra senza alcuni risultati. Uno dei risultati evidenti di ogni guerra è la fuga delle persone. Sembra una banalità, però sempre quando si fa la guerra, poi ultimamente in alcuni contesti la guerra, siccome si vede in televisione, quindi si dimentica poi una delle conseguenze proprio quelle della fuga delle persone. E quindi oggi assistiamo naturalmente a un periodo di grande mobilità umana, e questa mobilità umana naturalmente coincide con, incide anche sulla composizione religiosa dei contesti territoriali, perché le persone quando si spostano per qualsiasi motivo alla fine portano delle tradizioni, portano delle abitudini, abbandonano alcune abitudini, alcune tradizioni, e quindi incrementano anche il panorama, il pluralismo religioso di contesti, quello che sta avvenendo in tutto il mondo. È un problema che si pone in tutto il mondo, anche in paesi come i paesi del Golfo, che considerati paesi tradizionalisti chiusi, oggi di fronte alla presenza di persone provenienti da altre aree geografiche, quindi con altre appartenenze religiose, stanno discutendo, ma anche aprendo di nuovi luoghi di culto. E quindi è un processo Ma questa deterritorializzazione ha anche questa implicazione sul piano religioso. Allora oggi il pluralismo religioso, che diventa sempre più evidente, avviene in parte, soprattutto in Europa occidentale, anche del processo di unificazione europea, perché fino a pochi anni fa l'Europa era un po' cattolica e un po' protestante. Oggi abbiamo una grossa componente anche ortodossa, con l'estinzione dell'Europa, dell'Unione Europea verso l'est europeo. E nell'est europeo ci sono anche componenti importanti di religione musulmana, in Bulgaria, in Grecia, in Albania, in tanti altri paesi dell'est ci sono delle presenze di europei, chiaro, non sono arabi o pakistani o senegalesi, sono europei musulmani, la Bosnia. Quindi questa estinzione naturalmente incrementa la copresenza religiosa e naturalmente è evidente che anche l'arrivo degli immigrati produce ulteriore pluralismo. Naturalmente l'immigrazione e la presenza degli immigrati per definizione sollecita tante domande spigolose, perché le immigrati sono più visibili, oggi anche il colore della pelle è visibile, la lingua, la presenza soprattutto in alcuni luoghi della città dove passa buona parte delle persone, delle stazioni, no? E quindi c'è una presenza molto visibile che ci fa venire tante domande. Quindi l'unificazione europea e i processi di immigrazione oggi sono due fonti di questo incremento di presenze religiose diverse. Allora, le religioni, come la cultura, dicevo prima, sono interpretate da persone, e le persone quando arrivano in un contesto, la presenza della persona non è neutra, e i contesti in cui si inseriscono queste persone non sono luoghi neutri. Questo, secondo me, è importante che venga trascurato tantissimo dal politico, anche di attori sociali più importanti, che a luogo, nessun luogo è neutro, ogni luogo ha una sua storia, ha i suoi codici, e le persone che vivono nel luogo esercitano una certa sovranità sul luogo. Quando è l'arrivo dell'altro, mette in discussione, suo malgrado, questa sovranità, perché si apre un contenzioso all'interno del luogo. Una questione assolutamente fisiologica, non è una questione, no, ideologica o pensata o progettata. Quindi la presenza dell'altro, diceva la religione e la cultura, sono interpretate da persone, quindi le persone quando entrano in un contesto, entra in un contesto altrui, dove la mappa cognitiva, con la presenza dell'altro, entra un po' in subbuglio. Uno comincia a interrogarsi: con quale lingua parlo con questo? Da dove viene? Insomma, si pongono delle domande. Allora, cosa accade? Accade che la presenza dell'altro produce delle frizioni. Queste frizioni andrebbero gestite, e le religioni esercitano, in questo caso hanno un ruolo importante nella produzione di frizioni, perché la religione comunque è una componente importante per molte persone, incide sulle identità, sulle strategie identitarie che la persona dà, per cui gioca un ruolo importante. E quindi le religioni tendenzialmente, almeno ci hanno lasciato queste eredità, adesso c'è naturalmente molta confusione su questo fatto qua, si presentano come anche, come si dice, fossero in possesso di una verità esclusiva e assoluta. Questo è un dato importante. Due, le religioni tendono anche al proselitismo. Soft, hard, no? Però c'è la tentazione. Quindi questi due elementi rendono il rapporto le frizioni più si sentono di più le conseguenze di queste frizioni. Questo avviene poi in una fase storica come quella di oggi, una fase di crisi sociale, economica e valoriale, c'è uno smarrimento, c'è anche forse anche non solo la debolezza, a volte anche la sparizione di luoghi che venivano chiamati una volta luoghi di narrazione collettive. Cosa vuol dire? Vuol dire che negli anni, per esempio dopo la seconda guerra, quando i meridionali dal sud dell'Italia sono arrivati verso il nord, hanno trovato fabbrica, e la fabbrica era una fabbrica come una volta, grandi, dove la fabbrica dava l'identità a quegli ex contadini che sono arrivati, dava l'identità di un nuovo soggetto, un operaio, trovava il dopo lavoro, trovava il sindacato, trovava il partito. Questi luoghi aggregavano la gente e creavano un nuovo progetto condiviso con la gente del posto. Questi luoghi oggi non sono più. La grande fabbrica non ci sono, i sindacati indeboliti, i partiti sono, ci sono? No, non so. E allora, i luoghi di aggregazione per mettere le persone insieme oggi sono deboli o scomparsi. Questo è un grande problema oggi che per la democrazia, perché per stare insieme abbiamo bisogno di una narrazione collettiva, di un linguaggio comune, di una prospettiva comune. Qual è oggi la prospettiva comune, il linguaggio comune? Intorno a che cosa ci troviamo? C'è una frammentazione, una parcializzazione. Allora, se questa parcializzazione avviene, gli immigrati che arrivano con anche il bagaglio religioso, con un'altra memoria, dove si collocano? Con chi condividono? In quali spazi possono produrre una narrazione che li fa, che li aiuta a produrre una memoria insieme agli altri? Noi italiani, voi, chi è italiano qua? Cioè, questa è una zona, uno non sa come deve stare attento, no? E comunque la collettività che vive in quest'area del paese si è costruita, almeno la memoria collettiva italiana negli ultimi 150 anni si è costruita su due cose. Una è un risorgimento, che me l'hanno insegnata anche a Verdato. Sì, Mazzini, Cavour, Garibaldi, quando sono arrivato ho scoperto che Cavour ha letto le dichiarazioni dell'indipendenza in francese, neanche in italiano. No? E quindi, per cui io ho scoperto che questa memoria del risorgimento ha significato, che vedete che la memoria mai oggettiva, la memoria è qualcosa di parziale. Ho scoperto che una parte della società italiana rispetto al risorgimento non ha questo entusiasmo da ricordare, no? E la seconda, il secondo momento è la resistenza, intorno alla resistenza. Allora oggi noi, qual è l'altro momento per produrre una terza Italia che pensa in un modo diverso? Intorno a quale tema? Quale narrazione? La narrazione del risorgimento? La narrazione della resistenza? Quando arrivano tante persone che di questa memoria, no? Non si riconoscono, non l'hanno vissuta, è sul piano affettivo, no? Emozionale, passionale, perché poi la memoria non è solo una funzione razionale, no? Quindi è un'emozione la memoria trasmessa. Allora la questione, quindi, quale memoria? Le religioni oggi, in questa fase di smarrimento, cosa succede? Che la comunità religiosa in fase di smarrimento rischia di sostituire la società politica, quindi il particolare, le appartenenze primarie, rischia di prevalere sulle appartenenenze collettive, perché diventa l'unico cartuccio in cui la persona trova una certezza, sicurezza, soprattutto a chi viene da fuori, perché quel che viene da fuori è ancora più smarrito rispetto alla gente del posto, e quindi cerca di aggrapparsi a qualche narrazione già interiorizzata, incorporata al passato, per poterla riprodurre qua in qualche modo. Allora, quindi le religioni possono naturalmente ricollocarsi e ristrutturarsi in termini di cantucci. Dalle certezze però si parla delle persone, e l'identità delle persone diventa soprattutto un'identità religiosa. Quindi è adottivo, mentre l'identità delle persone è un'identità molteplice: sono donne, sono uomo, sono giovane, sono insegnante, sono operaio, sono contadino, sono commerciante, sono ricco, povero, istruito, mi piace la cultura, vado al cinema. Insomma, gli elementi che compongono l'identità delle persone sono tanti. E per cui, in caso di smarrimento, il rischio che cos'è? Che la religione diventa un cantuccio rassicurante, però va a scapito di tutta l'altra complessità dell'identità di una persona. E oggi, se uno mi chiede quali sono le aggregazioni che in qualche modo stanno in piedi e funzionano a un certo punto tra le persone di origine straniera, guardate, non ho dubbio di affermare questo, che oggi l'unica aggregazione che funziona, che mette la gente insieme, è la questione religiosa. Vale per tutti: buddisti, induisti, musulmani, bahai, protestanti di ogni genere. Questo che funziona oggi. Queste sono le aggregazioni che funzionano. E da un certo punto di vista è un dato positivo che la gente si aggrega intorno a qualcosa, perché altrimenti lo smarrimento diventa veramente un disordine di interesse. Allora, quindi in Italia, come Bolzano diceva prima, noi abbiamo un panorama religioso, anche se la religione cattolica o la religione d'ambiente, la religione storica, una maggioranza schiacciante. Uno, guardate che è uno dei pochi paesi del mondo ha una maggioranza, cioè quasi difficile vedere un tempio religioso diverso da quello cattolico. Quindi questa è una caratteristica un po' italiana, un po' spagnola, un po' portoghese, mentre in altri paesi del nord Europa almeno la presenza protestante è visibile. In Italia, come alcuni paesi del sud Europa, hanno delle caratteristiche naturalmente storiche di certo tipo. E quindi però, nonostante ciò, qui gli ebrei, ad esempio, sono arrivati, sono arrivati in Italia durante, già prima del cristianesimo, la presenza ebraica a Roma, anche perché l'impero romano era un impero che inglobava e abbracciava diversi contesti territoriali e diversi luoghi. E i primi movimenti protestanti sono nati in Italia, i Valdesi, intorno al 1100-1200, credo. Quindi, se noi andiamo a vedere tutto l'arco alpino, dal confine con la Slovenia fino al confine francese, sempre state abitate da persone di lingua diversa, e anche è più visibile in questa area la diversità religiosa. Trieste si vede, la chiesa ortodossa serba, greca, la sinagoga, visibili, anche perché Trieste è stata parte dell'impero austro-ungarico, quindi c'è una visibilità. Venezia, i Valdesi, gli armeni, la comunità ebraica, qui, e poi andiamo verso, fino all'altra parte, troviamo gruppi protestanti come i Valdesi, e in Piemonte, insomma. Allora, c'è una presenza anche in Italia, nonostante questa maggioranza storica, qualche realtà religiosa diversa ha trovato un suo spazio, una sua collocazione. Questo panorama religioso poi, con i movimenti protestanti provenienti dagli Stati Uniti, ha cominciato a modificarsi già nella metà del secolo scorso. Negli anni 60 poi abbiamo assistito a un altro cambiamento. Il cambiamento avveniva tramite gli studenti, i movimenti giovanili, che hanno cominciato a guardare al mondo con altri occhi, con altri sguardi. Non sono più come i loro genitori, hanno cominciato a guardare lontano, quindi viaggi verso l'India, viaggi verso l'Oriente, e diverse di queste persone sono tornate con un bagaglio religioso diverso da quello cattolico. Quindi anche il movimento giovanile ha registrato un cambiamento su questo, in questo piano. Quindi l'allontanarsi, di smarcarsi dalle tradizioni dei genitori. Naturalmente poi dagli anni 80 poi, con gli immigrati, la cosa diventa assolutamente molto visibile. Oggi la componente ortodossa tra gli immigrati è molto forte, quindi l'ortodossia è rumena, coraini, alcuni albanesi, la componente la Moldavia, quindi ha una componente significativa, così come significativa la presenza musulmana, il pentecostale soprattutto tra gli africani della Nigeria o del Ghana, il movimento pentecostale, tra gli indiani il buddismo o il buddismo, anche tra i cinesi il buddismo. Per cui qui, per arrivare qua nella realtà dell'Alto Adige, la componente religiosa più numerosa è quella musulmana, poi viene quella ortodossa e poi quella protestante, e poi abbiamo gruppi, e alcuni naturalmente prevalgono certe nazionalità, mentre in alcune esperienze buddiste prevale la componente locale. Quindi oggi, per esempio, sapete che nella zona industriale c'è un tempio Sikh. Sikh, una religione indiana. E nella zona industriale? Ci sono diverse moschee, due nella zona industriale, una in via Viale di Trento, una in via Macello. Sì, sale, si chiamiamo moschee, sale di preghiera, luoghi di preghiera. Gli induisti ancora non sono strutturati, o non si sono strutturati in modo, diciamo, qui c'è il componente minoritario di poche persone, i Baha'i, naturalmente la comunità ebraica, la comunità ortodossa russa è tornata ad essere attiva a Verano, quindi il panorama, vedete che sta cambiando. Questo fino a pochi anni fa non potevamo parlare di questi, anche denominazioni diverse, poi all'interno del buddismo sono denominazioni diverse, all'interno dell'islam sono denominazioni diverse, perché poi non si risolve con l'etichetta principale, poi ci sono altre derivazioni. Quindi questo è il panorama. Che cosa si stiva? Adesso è arrivato, sono passate dalla società plurale alle religioni, adesso passa alle convivenze. Che cosa si sta facendo? Va bene, quello che si sta facendo oggi, per cominciare a capire, a conoscere questa realtà, come si stanno organizzando, come si muovono, come utilizzano il territorio, come avviene il territorio, c'è il giardino delle religioni. Siete mai stati? Alcuni sono stati, dove ogni tanto si fanno degli incontri e alcuni esponenti dei rappresentanti del mondo della religione si trovano a fare una preghiera, a trovarsi insieme. C'è la marcia per la pace che si fa a Verano, dove partecipano anche diversi rappresentanti religiosi. Si tenta ogni tanto di fare qualche passo verso il dialogo su alcuni temi. Naturalmente queste non sono delle cose importanti, però a mio parere sono necessari altri passi. Sono necessari altri passi per conoscere e per soprattutto produrre quello che io chiamo vincoli di quotidianità, cioè come cominciare a condividere l'spazio coscientemente, individuare gli interessi comuni, i bisogni comuni, e in che modo possono le persone rispondere alle esigenze del quartiere o del territorio in cui vivono. Io ho avuto delle esperienze in giro per l'Italia, conosco alcune esperienze, alcune realtà. Quando abitavo a Trento, per esempio, nel quartiere dove ho vissuto, ho fatto un giro di cognizione sulla presenza religiosa nel quartiere e ho cercato di mettere diverse rappresentanti per discutere sul fatto, non Perché a volte noi, quindi sempre le persone, cioè a volte quando si alcuni tentativi, quando si incontrano i religiosi, si parla di questioni molto alte. E io da sociologo, quindi, a differenza del teologo guarda in alto, il sociologo guarda molto, vuole, cioè, come dire, raggio terra. E allora mettere le persone insieme e dire, vabbè, rappresentanti religiosi, che percezione avete del territorio come viviamo? Quali sono i problemi del quartiere? Cioè, per comprendere, no? I legami, le cose comuni, cioè il bene comune, la viabilità, le questioni ambientali, la pace sociale all'interno del quartiere. E questo era un modo per dire, anche incentivare i rappresentanti religiosi a interrogarsi su fatti reali. E su questo io ho fatto anni fa, ormai gli anni corrono, velocemente, e io una volta correvo moltissimo, era un corridore veramente grandioso, pensavo tipo che potessi correre più di Diana, invece mi hanno pregato il brutto, perché capita a tutti, no? Il tempo, l'unica entità libera di fatto, il resto tutto dettagli. E allora incentivare, ho fatto una ricerca sulle religioni in Trentino e mi sono ricordate delle cose curiosissime. Allora, intanto non pensavo che a Trento, città del concilio, ci fossero tanti gruppi religiosi. Io pensavo no, il massimo delle una decina, una quindicina, invece più di 30 gruppi religiosi in una città piccola, coesa, eh? Allora, quando ho chiesto di fare delle interviste con rappresentanti religiosi, allora mi hanno dato una serie di indirizzi, vabbè, finché sarate della Chiesa Cattolica o miei amici, naturalmente c'erano molti, quindi insomma non era problema. Però gli altri era un po' difficile. Quindi per trovare un rappresentante induista mi hanno mandato a Valde Primiero. Sapete cos'è Valde Primiero? No, infatti anche quelli di Valde Primiero secondo me fanno fatica a sapere dove va Valde Primiero, sto scherzando. E quindi ho fatto un viaggio lunghissimo, no? Per arrivare a Valde Primiero, una bella valle, insomma, verso Belluno, pratica si andava. E io tra me e me, rappresentante induismo, ho pensato che avrà turbante, una tunica particolare, insomma, mi trasmetterà delle saggezze, che ne so, no? Insomma, l'immagine, proprio del stereotipo, no? L'immagine, musulmano, linguista. Allora arrivo, busso la porta, e sono giovane, trentenne, poi sì, insomma, con una camicia bianca, un paio di jeans, così cerco il signor Tali d'Italia. Mi passano io. E allora mi sono fatta raccontare come è arrivato, guardate che, come è arrivato ad, insomma, ad entrare in contatto con questa esperienza religiosa. Io sempre ho avuto delle inquietudini spirituali. E poi mi sono comprato un computer, guarda che interessante questo, un computer, questa tecnologia e spiritualità. Mi sono comprato un computer e tramite il computer ho cominciato a fare delle ricerche di vari siti che parlano di religioni, di filosofia, di. Però quella induista mi è sembrata che mi ha incuriosito. Allora, io ho detto, ma lei non è stata in India, non ha incontrato un indiano, non ha incontrato qualche, no? No, niente. Allora, dopo un po' ho scoperto un luogo a Vicenza, ho frequentato degli induisti. Allora io ho cominciato, insomma, ad entrare di più in questo pensiero. Pensate, cioè uno pensava una volta che la religione vengono attraverso degli arcangeli, no, di angeli. Invece qua del computer. E quindi E il computer che cosa ha fatto? Che ha portato il mondo dentro casa nostra. Cioè noi continuiamo a essere ancorati al confine, il confine, il confine. Il confine ormai non c'è, perché il telefonino in tasca, io trovo il mondo. E il computer in casa ha attraversato, ormai ha annullato tutti i confini. E per questo ho raccontato questa parte qua. Oggi anche le religioni, l'adesione alle religioni, passa tramite questa community social network, no? Social network, che producono anche questo effetti sul panorama religioso. E naturalmente, dicevo, per concludere, la ricerca che abbiamo fatto era finalizzata a capire questa persona di diverse appartenenze religiose, come vive nel territorio, che concezione hanno della famiglia, come educano i figli, che rapporto hanno con la medicina, con il cibo, con la pulizia della casa, che rapporto hanno con la città, le strade, la viabilità. Quindi non abbiamo chiesto un confronto sui dogmi religiosi, era un ragionamento assolutamente di sociologia semplice, capire le persone che cominciano a vivere in questo territorio con appartenenza religiosa hanno una visione diversa, si comportano in un modo diverso. Guardate la cosa interessante: una famiglia cattolica, quindi storicamente non dovrebbe avere problemi, e ora l'altra famiglia anche, soddisfatta l'educazione dei figli, quasi tutti hanno espresso le stesse perplessità: come faccio a educare i miei figli oggi con tutte le concorrenze di altre agenzie di socializzazione, con le trasformazioni che ci sono oggi, come faccio a educare i miei figli e come faccio a trasmettere i miei valori religiosi ai miei figli, tutti quanti. Questo è un tema comune. Un tema comune, effettivamente, in un consultorio, ho fatto un'esperienza, un servizio sociale, consultorio a Cremona, abbiamo messo insieme delle donne, invece di dire tu sei quello di noi, sono più emancipato, tu meno emancipato, le abbiamo messe insieme e ho cominciato a discutere come gestiscono il tempo, da quando escono di casa e quando tornano a casa, per quale motivo escono di casa e per quale motivo rientrano a casa, come gestiscono la casa, come utilizzano banalmente i prodotti di pulizia. Questo cosa significa? Creare una narrazione che mette insieme le persone attorno a cose concrete che tutti alla fine abbiamo a che fare: attraversare la strada, vivere nel giardino pubblico, salire sul bus, avere a che fare con i servizi sociali, con la medicina, con tant'altro. Questo è un modo per avvicinare, ridurre le frizioni, avvicinare le persone e far sì che le persone appartenenti a diverse religioni cominciano a pensare. Cominciata, l'ha già cominciata, però essere consapevoli dell'importanza del fatto che tutti quanti condividono un volume di attività equivalente per tutti e tutti trattano gli stessi temi e cercano di affrontare le sfide. Questo, quindi, la convivenza avviene di come incrementare l'occasione di incontro, le occasioni di narrarsi, l'occasione di instaurare relazioni intorno a temi concreti, perché se parliamo delle cose alte, dei dogmi di cui le persone spesso anche sono disarmate, invece sui temi di questa ricerca, sui temi della bioetica, tantissimi mi hanno detto: guarda che noi su questi temi qua non ci siamo mai interrogati bene, perché sono temi sensibili e le persone si trovano anche disarmate, non hanno tutti gli strumenti per affrontare certi temi. Quindi il problema del sociologo cos'è? Di far sì che le persone riproducano più relazioni tra di loro per stare insieme. E con questo finisco, grazie. Se ci sono delle domande, osservazioni, considerazioni, se uno vuole parlare, le due microfoni, non solo uno. Va bene? Mi avete seguito? Sì. Sì? Bene, vi ringrazio. Dio vi benedica. Vi dà tutti i paradisi possibili. Prego. Lei ha detto che sono 30 tipi di 30 gruppi? 20 gruppi. No, più di 30. Sì, ma la popolazione è diversissima. Guardi, dice, la religione è un bellissimo fuoco, con tanti rami. Sì. E tutti vogliono avere ragione, anche là. Io dico, se mettiamo tutti a fare girare il mondo, queste barriere delle religioni svaniscono per me. Sì? Sì. Ma vediamo, se facciamo tutti un bellissimo giro con tutto il mondo, dopo che conosciamo queste persone, le vediamo, le parliamo, discutiamo assieme, la barriera delle religioni svanisce. Questo è il mio discorso. Non si divida più. Sì, cioè la religione viene attribuito molte cause, come fossero le cause dei conflitti. Io su questo ho un po' di dubbi, perché anche quando la nostra umanità ha provato qualche altro sistemi, la guerra era cominciata a fare, la violenza contratta era perpetuata, per cui la questione potere. Sarebbe potere, cioè. Allora, secondo me anche oggi quando si parla si accentua il fatto che la differenza fosse una causa del conflitto, ma veramente siamo sicuri che la differenza è una causa di conflitti? Guarda che io questi giorni a Torino con i miei colleghi stiamo lavorando su questi temi qua. E c'è un saggio qua di un rabbino inglese che scrive delle cose che a me sono piaciute tantissimo. Perché? Perché lui parte da questo fatto che la somiglianza produce il conflitto, e che viene chiamato in questo saggio qua il desiderio mimetico, voler quello che ha l'altro, anzi sostituire l'altro. E qua prendere tutta una serie di storie del Genesi. Caino e Abele sono fratelli. Cosa è successo allora? Jacob e Esaù. Sono il secondo genere. Cosa è successo? Giuseppe e i suoi fratelli. Giuseppe e i suoi fratelli. Li volevano ammazzare, poi l'hanno buttato in un pozzo, l'hanno rubato il vestitino. Allora, perché questo desiderio mimetico, io voglio dei bambini. Da bambini vogliamo quello che il giocattolo che è l'altro piccolo, anche se non abbiamo mai desiderato quel giocattolo, però quando li vediamo nella mano, in mano di un altro, lo vogliamo. E quindi la questione, scusa Margherita, questa è la questione della differenza. Come la multiculturalità, ho insistito sulla multiculturalità, perché questi vocaboli andrebbero rivisti alla luce di questa storia qua, perché sono vocaboli, hanno una storia e la storia cambia, e quindi il linguaggio rischia di essere, come dire, della gabbia, e quindi noi dobbiamo uscire dalla gabbia, anche inventare delle nuove vocaboli. Per cui, come la parola identità e cultura sono della gabbia, e quindi anche la questione delle differenze come fosse causa di conflitto, invece il volere è la stessa cosa. Infatti i conflitti continuano perché le persone oggi vogliono la stessa cosa. Il contenzioso si apre, non dice io voglio essere diverso perché voglio vivere secondo, no, io voglio quelli che vengono chiamati oggi i simboli dell'homo economicus. Quelle che ogni città del mondo sono la pubblicità. Macchine, telefonini, Nike, Nokia, Toshiba, non lo so. Questi sono i simboli dell'uomo, no? Economico. Su questo oggi colonizza la mente, il retrocranio di tutte le persone nel mondo, non si salva nessuno. Questa è oggi la grande sfida, la somiglianza, no? Non la differenza. Perché la differenza, almeno uno rivendica la propria differenza, e cerca di collocarsi in uno spazio in cui riconosce la sua differenza. Il problema oggi è il contenzioso. Come accedere alle stesse cose? Guarda, questo è un pensiero su cui riflettere, cioè non ho nessuna verità, però il rabbino mi è piaciuto perché Il tema oggi è il tema del desiderio mimetico. Voglio quella che ha l'altra. Margherita. No, io volevo dire, ma il desiderio mimetico sarà una sciocchezza per farla vivere, forse. Sono convinta anch'io le differenze non creano le guerre. Anzi, ho notato che alla base amiamo le differenze. Il popolo va d'accordo con il diverso. Cioè, è in alto che si provocano, che si vogliono i conflitti, che si vogliono provocare i conflitti. E poi un'altra cosa, questa cosa mi farà ridere, è verissimo, vogliamo quello che ha l'altro. Io amo gli animali, avevo in casa un cane e dei gatti. I cani andavano d'accordissimo, erano differenti, più differenti di loro. Al momento del mangiare, il cane voleva la pappa del gatto, il gatto voleva la pappa del cane. Più ovvio di così, ecco, si muore. Grazie Margherita per il tuo cane ti ha aiutato a stare bene insieme. Forse nella natura umana, comunque non dobbiamo dimenticare un altro aspetto molto pericoloso, secondo me, quello sia l'uso strumentale della religione per interessi puramente di potere, puramente economici. Spesso e volentieri dietro alle guerre del Medio Oriente c'è petrolio puro e semplice, per cui bisogna anche valutare questo aspetto, no? Che io ritengo veramente molto molto importante, quello sia la religione, le religioni come sovrastrutture e le religioni come strumenti da parte di poteri molto materiali, molto concreti, poteri economici, poteri politici, non il potere come entità astratta, no? Che utilizzano la religione e le religioni per seguire i propri interessi e mantenere le proprie posizioni di dominio, per scardinare altre posizioni di dominio. Questo va sempre, secondo me, sottolineato. Sì, noi oggi naturalmente ci troviamo di fronte due interpretazioni. Una che coesistono all'interno della stessa religione, quella di mettere al centro la dignità della persona, invece ci sono altre interpretazioni che mettono al centro il potere. Io credo che oggi però l'esperienza abbiamo di Papa Francesco, che tende ad assumere come posizione quella di mettere al centro la dignità delle persone. In altre regioni ci sono questi tentativi anche, naturalmente. E non a caso negli ultimi anni avvengono molti incontri tra esponenti religiosi di diversa appartenenza per affermare questa fatta qua, come sbarcare la religione dell'utilizzo del politico di turno, l'utilizzo politico. E però questa rimane una sfida. Posso? Allora, Papa Francesco è una persona molto simpatica, mediaticamente perfetto. E dice un sacco di cose giuste che sono frutto di 2000 anni di diplomazia della Chiesa. Cioè la Chiesa è da 2000 anni diplomaticamente maestra di tutto, c'è un'esperienza incredibile, quindi tanto di cappello, no? Ricordo solo una cosa, la butto lì così: 312 d.C. Costantino ammette la religione cristiana, 380 d.C. Teodosio afferma che quella è l'unica religione e fa fuori tutti gli altri. Ecco, diciamo che Può fare riflettere. Sì, sì, no, chiaro, questo nessuno credo che non abbia idea dell'utilizzo della religione come strumento di potere, di dominio. Però dico che oggi sicuramente, soprattutto in ambito religioso, ci sono delle riflessioni critiche rispetto a questo, e ci sono tentativi di staccarsi, di allontanarsi di certe esperienze, sono presenti, questo diversi contesti, naturalmente. Poi magari sono presenza, sono orientamenti minoritari, però comunque hanno un peso. Hanno un peso, e possiamo anche fare degli esempi. Pensiamo solo alla teologia della liberazione in Sud America, così, no? E lì sono d'accordo, io sono con quello che dicevi tu. Questi gruppi tipo Teologia della Liberazione o altri esempi che si potrebbero fare partono dalle cose concrete, non partono dai dogmi, partono dal pane, dalla condivisione delle risorse, dal problema del quartiere, e questo mi dà molta speranza. Sì, però vorrei anche aggiungere una cosa, sono d'accordo, che in Italia è uno dei paesi che ha un movimento per la pace, una cultura per la pace molto radicata e forte, e grazie anche a esponenti del mondo cristiano cattolico. Quindi alcune cose andrebbero anche ricordate, questa cosa qua, no? E quindi il movimento per la pace in Italia è conosciuto in tutto il mondo per la sua, il suo radicamento. Altre voci? Non vedete l'ora di scappare? Quello di dire una cosa, lei prima parlava del parco delle religioni del metropolitano, sì, un certo esempio, sì, di convivenza tra le religioni. Sì, un gesto che possiamo chiamare pedagogico. Non le sembra un po' riduttivo il fatto comunque che gli esponenti, anche chi pratica altre religioni in Italia, non abbia mai degli spazi di culto riconosciuti? Cioè in Italia si fa difficoltà ad accettare i luoghi di culto di altre religioni, come qui a Bolzano, diciamo, ci sono, però non sono ufficiali. Sì, sì. Naturalmente. Cioè, l'incontro con l'altro, gli immigrati anche a Bolzano sono tanti, molti sono anche qui da anni. Non si potrebbe cercare di integrarli maggiormente, creando anche dei luoghi di culto dignitosi, autorizzati, dignitosi, riconosciuti? Ma credo che questa è un'esigenza legittima, prevista dalla Costituzione italiana, prevista dall'ordinamento internazionale, prevista dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 48. Quindi questa è una questione sicuramente va affrontata seriamente, anche perché oggi non sono solo immigrati stranieri. Quando parliamo di religioni ci sono molte persone italiane, doc, emiliani, liguri, no? Toscani, lucani, sardi, che appartengono ad altre religioni. Quindi la questione non è solo perché, no? A volte si trova la giustificazione, perché sono stranieri o altro, quindi non c'è un accordo di reciprocità. Oggi numeri significativi di persone che appartengono ad altre, che hanno scelto di aderire ad altre, insomma, visioni di fede, e quindi questo credo che sia anche qui. I pronunciamenti più interessanti su questo li troviamo in alcuni settori in ambito cattolico, sul diritto degli altri di avere luogo di culto. Invece l'esistenza, com'è? Anche nella Costituzione italiana. Sì, quella che ho detto prima, un diritto costituzionale. Il problema è che molto alcuni settori della politica, naturalmente. Quindi è una questione politica. Prego? Secondo lei quindi è una questione politica. Quale? Dei luoghi di culto in Italia. È una questione politica, perché dal punto di vista normativo, costituzionale, dell'ordinamento internazionale, anche le stesse chiese cattoliche non è così, vuole dire, sono favorevoli in qualche modo all'istituzione di luoghi di culto. Il problema è un problema politico, il problema è quindi che alcuni settori che investono molto su questo fatto qua, e diciamo che comunque. Però la storia procede, quindi la resistenza naturalmente possono essere anche comprensibili, però la storia impone, no, la sua poi logica. In democrazia è questione di voti che si fanno, votano. I politici non si preoccupano di dare luogo di culto, quando saranno in modo consistente il numero di. A me, per esempio, quando sono arrivato in Italia, mi ha fatto impressione il fatto che erano 2 o 3 anni che ero qua, forse è stata la prima e l'unica volta che in Italia essere votato anche di lunedì, perché se non sbaglio domenica è la Pasqua ebrea, è l'ora di Pasqua, ma non è la Pasqua, non è solo neanche il calcio, è vietato. E allora lo Stato italiano, per non so, saranno 100.000 ebrei in Italia, no? Non è niente. Ecco, ha dato dargli allora la possibilità di andare a votare, ha rinviato, cioè non rinviato, ha allargato, diciamo, lo spazio temporale per poter votare. Per me era una cosa. Perché queste 100.000 persone votano, quando ci saranno 100.000 persone che votano, i politici andranno. Sì, anche quello, sì, poi c'è. C'è in Italia comunque anche rispetto al calendario delle festività per la scuola, cioè il calendario scuola prevede una serie di, come dire, riconosce le festività di altre religioni, però questi sono temi, secondo me, come diceva Rita, saranno anche in futuro, si avranno dei varchi grazie al peso elettorale, anche a volte perché peso elettorale, poi anche viviamo comunque all'idea di anche un ordinamento dell'Unione Europea che impone certe indicazioni rispetto a questo tema qua. Però vabbè, tanto certamente la politica sta ostacolando questa cosa qua, hanno ostacolato per esempio la legge sulla libertà di culto in Italia, no? È rimasta bloccata per anni, è ancora bloccata. Però la politica è così, va presa in considerazione anche questa persona qui, però rimane comunque il fatto che l'esigenza è un'esigenza legittima di avere un proprio luogo di culto. Basta. No, volevo solo dire, tanto per chiarezza, che una volta si votava 6 anni, lo so di sicuro perché facevo lo spettatore, ma non si votava 6 anni. Comunque a me ha fatto l'impressione che quella volta era fatta sempre a quella di non serve. E poi una cosa che mi sento di dire è una banalità, perché sì, non è una banalità, siamo noi che votiamo, quindi quando si parla sempre della politica, della politica non è che la politica viene giù dal cielo, Deus ex machina, siamo noi, secondo me è un fattore anche molto di crescita personale, un fattore anche psicologico. Io ho amici che su questo, cioè, mi fa anche male sentire che a volte parlano in un modo molto negativo rispetto a questi discorsi. Perché siamo, quindi dipende molto da, anche da ognuno di noi. A me comunque non sembra una cosa così, diciamo, che ci sia luogo di culto, va bene, ma la religione in certi posti del mondo non è così divisa come è qua, divisa la religione e l'ero cattolico dello Stato, perciò viene vissuto in un altro modo, è un modo di vivere che poi incide anche su, cioè, a me per esempio fa ieri, proprio ieri, sono andato a prendere mio figlio in asilo, ho visto una donna completamente velata. Va bene questa cosa? Tu eri curioso per vedere com'era? No, non è che non io vengo da un paese dove ci sono musulmani, ortodossi e cattolici, è normale, nello stradone, davanti a casa mia, ce ne sono la chiesa, la moschea e la chiesa ortodossa, perciò per me questa cosa, ovviamente io ho vissuto il periodo comunista, ma erano tutte chiuse ed erano cinema o convertite, adesso sono chiese e moschee perché hanno ripreso, diciamo, questa la loro attività che avevano in principio, però e poi ci sono anche oggi in Albania durante il comunismo, no? Cioè, io personalmente lo vedo comunque, sempre io dovrei essere un musulmano, sono un ateo, e comunque vedo come un'arretratezza anche culturale il fatto che una donna sia sé, cioè anche se è scelta sua, per me è una retroattenza culturale, se è imposta ancora di più, e questo è un problema per la società italiana, se, perché noi non sapremo mai se quel velo lì è un velo, è una libera scelta, o è un velo imposto dal marito, dal fratello, dal padre, dal non so chi. E allora per questa società questo non va bene, perciò le religioni portano anche una serie di altri problemi, perché le religioni sono anche un modo di vivere. Ma è coperta di tutto? Tutto coperto. Non l'ho vista niente. Noi? Vabbè, rimaniamo come si dà. No, ma sono d'accordo con te, nel senso, quello che dicevo, come oggi c'è la necessità di produrre una memoria, una prospettiva per una società che cambia, naturalmente sono temi su cui porre delle domande, anche delle perplessità, anche delle contrarietà, questa è la questione che dicevo prima. Però per fare ciò, quel discorso di come creare spazi, come far sì che queste persone si incontrino per dibattere queste questioni qua, e anche capire effettivamente qual è il motivo, qual è la prospettiva di questi gesti qua. Naturalmente io personalmente non sono del parere che le persone camminano come fossero, insomma, ma anche sul piano della comunicazione, sul piano, cioè, secondo me una parte dell'identità delle persone viene a mancare per l'interlocutore, cioè come creo la comunicazione con le persone che non vedo, non so quale la gestualità, lo sguardo, se, insomma, sono temi, questi temi pongono delle cose. Sono andato in Danimarca qualche anno fa. Hai trovato un altro? Eravamo, e lì proprio ancora di più nelle grandi città europee. Eravamo in un albergo che era dotato della piscina. Siamo andati in piscina, dopo un po' ci hanno detto dovete uscire perché adesso per 2 ore è riservato per dormire. Ma su questo, vedi che c'è una spiaggia triste, Lanterna, conoscete le spiagge Lanterna triste? Dove ci sono? Dove è la divisa? Uomini e donne. Su questo, secondo me, per permettere anche alle donne di andarci a sentirsi a loro agio, credo che su questo. Però è comunque una questione poi di risorse, perché se a Bolzano c'è una piscina sola e la piazza tutto il giorno per tutti, a un certo punto tutti devono dividere la metà, è una cosa che a me viene a mancare, che non mi frega niente se ci sono donne coperte o scoperte, e ovviamente verrebbe a mancare le altre. È ovvio che quella sì è questione di voti, perché quel giorno che quelle che vogliono fare la piscina a parte avranno pochi, magari. Ma ci sono anche delle donne italiane che vogliono, cioè donne italiane dove vorrebbero andare? Ci sono un sacco di saune in Alto Adige dove un giorno alla settimana è riservato alle donne, e a me è una cosa che va benissimo, non vedo il problema. Una volta in America, quando c'erano i bus e i tram per i neri, i bus e i tram per i bianchi, era razzismo. Anche questo secondo me è la stessa cosa. Assolutamente no, sto proponendo dei temi, non so, ma credo che c'è un po' di priorità, un po' di diverso. Non trovo che sia l'incertezza culturale che una donna scelga di portare via le proprie cose, è un'altra cultura, non è l'incertezza culturale, io la vedo così. Se lui si riferiva a Bisogna entrare nella mentalità, nel contesto, sì, tutto. Sì, è chiaro che poi effettivamente definire. Cioè io non posso. Però in un contesto come questo, naturalmente sul piano della relazione e della comunicazione potrebbe. Ma ci sono, non si integrerà mai. Ci sono relazioni che vanno al di là del vero. Non è un vero che mi impedisce di entrare in relazione con una persona. Beh, grazie. Sì, io volevo chiedere. Ma siamo qua per dibattere, dicevo che è delicata e sicurosa, ma scusi. Allora, lei prima parlava della necessità di fare delle azioni in più per riuscire a conoscere queste realtà diverse religiose, e partendo appunto dalla società, da quelle che sono le abitudini, diciamo, di tutte le famiglie, che possono essere accomunate comunque con le abitudini di famiglie che hanno religioni diverse. Quindi le chiedo se ha delle proposte concrete, o se ha avuto o partecipato a dei progetti che hanno previsto delle azioni che aiutassero ad accomunare, quindi ad avvicinare le persone con religioni diverse. La seconda domanda che invece le faccio è che cosa pensa, perché sono nate molte polemiche in questi ultimi tempi sulla necessità poi di esporre crocifissi, di portare avanti delle tradizioni culturali, religiose, cattoliche, cristiane, che poi andavano in qualche modo a offendere o a limitare la libertà Queste, secondo lei, queste azioni, di cui si è discusso molto, sono azioni che possono portare a un rispetto tra le religioni? È opportuno farlo, sostenerlo, o è sbagliato? Insomma, un po' vorrei sapere la sua opinione, insomma. Grazie. Sì, sì. Grazie. A me non risulta che ci sia stata una comunità religiosa che abbia espresso una contrarietà alle simboli della ragione. Non esiste. Era questo che volevo questo dire. Non, sera, non esiste, non mi risulta, ci sono stati degli individui che hanno sollevato questo, una donna, credo adesso finlandese, per motivi di laicità, e ha fatto un ricorso a qualche tribunale, un altro giudice Macerata, in Marco, comunque anche lui di un'altra esperienza religiosa non musulmana, anche lui ha sollevato la questione che nella sala, nel tribunale c'è il crocefisso, però ora, delle comunità religiose nessuna mi risulta che abbia fatto una, espresso una contrarietà a questa cosa. Seconda cosa, rispetto alla famiglia, io dico il vissuto della famiglia appartenente alla religiosa è poco esplorato. Io con l'istituto pedagogico negli ultimi mesi proprio quasi dell'istituto pedagogico che si occupava insomma della scuola, dei temi della scuola, abbiamo cercato di fare un piccolo fascicoletto su alcune famiglie per capire questa famiglia qua come producono i valori o come trasmettono la propria cultura all'interno delle pareti domestiche, quella che non si sa, questa dimensione come avviene. Dunque, a proposito di social network che possono avvicinare ma possono anche distanziare, perché diverso di questa famiglia e grazie alle Skype e tante altre cose potevano entrare in contatto ogni giorno con il loro familiare in paese d'origine, e quindi i nipotini che nascevano qua potevano parlare con i loro nonni, con i loro parenti, seguivano tutti gli eventi sociali, feste varie, momenti vari. E quindi io mi sono interrogato, questi social network aiutano sicuramente il collegamento, rimanere collegati col paese d'origine, però con il paese ospitante o il paese di arrivo potrebbero no? ridurre l'occasione di incontro con le gente del posto. Per cui anche questo è l'uso in questo caso qua ambivalente. Quindi il mondo della famiglia all'interno è un mondo da esplorare. Guardate che non c'è altra via, perché noi possiamo leggere saggi di sociologi, di antropologi, di psicologi, però queste sono parole, no? riduttive alla fine, perché la complessità lo scopriamo tramite l'unica risorsa per comprendere la presenza della persona stessa, la presenza dell'immigrato o degli stranieri appartenenti alla religione, la cosa è tramite le persone, per cui incrementare i rapporti, individuare di loro per parlare, anche perché poi ogni persona interpreta la propria cultura in modo diverso, perché noi contiamo di cultura, ma chi è di noi qua si sente rappresentante di cultura bolzanina? E io sono la rappresentante, ma chi è che ha mandato a fare la rappresentante di cultura? Noi siamo interpreti della nostra esperienza, siamo interpreti della nostra esperienza, è un'esperienza complessa. Io posso no, interpretare perché sono uomo, perché ho una certa visione del mondo, perché sono sociologo, perché che ne so, ci sono molte cose che mi portano a interpretare le cose, no, e le mie esperienze, per cui nessuno di noi è rappresentante di. Questa volta il vizio di gruppi, no? Vieni a rappresentare la tua cultura, ma non è così, vieni a raccontarmi la tua esperienza, che è un'altra cosa. Quindi noi dobbiamo scoprire l'esperienza degli altri tramite loro, per cui i quartieri, non so, i presidi sociali dovrebbero incentivare le persone a incontrarsi, le donne, gli uomini, i figli, creare una conversazione su come stai educando i figli, che concezione hai della scuola. Guardate, una delle prime ricerche che ho fatto qua a Bolzano sugli alunni stranieri nella scuola risale al 93, 4, quindi sono 25 anni fa, un quarto di secolo. Adesso gli dico, mi spavento, dico, mamma mia, mi è rimasto poco per vivere ancora, no? Allora, quando gli insegnanti allora erano molto giustamente in allerta, cosa facciamo, preoccupati, come facciamo, quale lingua parliamo, come possiamo dare le indicazioni, come informiamo i loro genitori, sull'altro versante i genitori, che allora erano forse tutte una settantina di famiglie con cui abbiamo avuto a che fare, quando naturalmente nel questionario questi genitori risultavano contenti della presenza del figlio nella scuola, avete suggerimenti, avete richieste, no? Tutto a posto. Allora, insomma, confrontando la preoccupazione degli insegnanti e la tranquillità dei genitori, quindi alla fine sono andato io, scusate, mi spiegate cos'è questa storia qua, perché sono un dato un po', siete troppo tranquilli, vi hanno anestesizzato quando siete entrati in Italia per avere soggiorno, vi hanno l'intacco dell'anestesia, cioè troppo tranquilli, no? Allora, alcuni genitori mi hanno detto, scusa, se io il mattino porto i miei figli e li metto in una scuola, trovo una scuola pulita, ordinata, degli insegnanti che si occupano di questo, e questo dopo una settimana comincia a parlare l'italiano molto meglio di me, e voi come siete contento? E io invece continuo a fare le file davanti all'ufficio del lavoro, il soggiorno, il cantiere che si sposta da una parte all'altra, sto cercando la casa, certo rispetto alla mia situazione, lui ha acquisito una normalità che io ancora sono alla ricerca. Per cui questo me l'ha fatta sapere lui, non il mio schemino sociologico. E una volta degli insegnanti mi hanno chiamato in una scuola del Loretano dicendomi che facevo un'esperienza con loro, conducevo un'esperienza all'interno della scuola, e poi hanno approfittato della mia presenza e mi hanno chiesto, dice, da mesi che cerchiamo una famiglia marocchina che non riusciamo a metterci in contatto con loro, abbiamo mandato delle lettere, però naturalmente di stereotipo se vengono, sono arabi, musulmani, non vengono a scuola, la moglie magari non so, giustamente, come io ho fatto con l'induista, scattano, no? Perché l'identità dell'altro spesso è quella che io immagino, giusto? È il mio sguardo che dà l'identità all'altro. Io l'altro non lo conosco. Dunque, allora, scusate, mi fate scrivere una lettera? Sapete se questi. Chi c'è a casa? Chi è di loro in casa sa leggere l'italiano? Poi gli stranieri, prima per lì, hanno paura delle cose ufficiali, eh? Davvero? C'è un ragazzo una volta mi ha raccontato la sua storia, che la parola permesso per mesi l'ha spaventato da morire. Permesso vuol dire permesso di soggiorno. E lui dice, se salgo sull'autobus o entro in un posto, mi dicono permesso, mi spaventava, si spaventava. Questa parola delicata era produceva un sacco di paura per questa ragazza. Allora, quando poi ho scritto la lettera, abbiamo dato un appuntamento, io ho garantito la mia presenza. Dopo 3 giorni questo signore, dopo la lettera è stata inviata, lui è arrivato all'appuntamento, anzi è arrivato anche prima dell'ora fissata. Allora mi viene lì e mi fa, mi hanno mandato la lettera, poi l'ho letta nella mia lingua, vuol dire che ci tengono molto. E dice, perché le altre volte, perché non siete venuti? Né lei, né la moglie. Guarda, la moglie è arrivata da poco, ha paura di aprire la porta, perché non sa nulla, si è trovata lì. E io lavoro in cantieri, guarda, mi fa, io ho chiesto diverse volte il permesso al mio datore di lavoro, però non me l'ha mai dato. Questa volta mi sono impuntato, guarda, che se mi hanno scritto nella mia lingua, io non posso non andare. È avvenuto e abbiamo scoperto perché uno dei problemi era come mai i figli dovrebbero tornare a pranzo a casa. Allora la mamma ci teneva che questi figli tornassero a casa, perché? Perché lei era appena arrivata, l'unica compagnia con cui poteva avere a che fare erano i suoi figli, e almeno durante il giorno poteva prepararli da mangiare a questi, cioè occuparsi di qualche cosa, cioè una cosa. Però abbiamo letto tutto il mondo dell'antropologia, la sociologia, tutte le, no? E non si è arrivato che poi c'è anche questa dimensione assolutamente. Queste però si possono sapere se ce le facciamo raccontare dei soggetti stessi. Per quello che servono gli indicatori culturali, che qua si usano sempre meglio. Questo indicatore è un altro tema. Buono, se ci sono altre domande sono a vostra disposizione, se no vi ringrazio tantissimo, vi auguro buona serata, spero di aver dato degli stimoli da pensare. Per questo anche vi ringrazio.